che salivamo sui cancelli salutando gli automobilisti con le manine piccole. Attaccati ai sogni come mollette a un filo, giocavamo a nascondino, ci tiravamo i sassi, capanne lungo il fiume. Io ti comunico amore, che mi sento solo e non mi piace ricordare né lasciarmi trascinare come una foglia lungo un viale. Ma ti comunico amore, tienimi dentro ancora e non mi chiedere niente, mai niente di niente, lasciati amare. Come un vetro che si spacca, questo amore. Un bambino abbandonato e un palo in mezzo a un prato, questo amore. Questo amore troppo grande è un amore da gigante. Cerca invece di capirmi, parliamo ancora. Io ti comunico amore, il mio uno strano dolore. Questa vita di niente, una vita da niente, non mi lasciare. Come un vetro che si spacca, questo amore. È un bambino abbandonato, è un palo in mezzo a un prato.